Oggi, 1 febbraio, la nostra diocesi di Milano fa memoria nella liturgia di un suo arcivescovo santo e credo poco conosciuto al di fuori della diocesi, Cardinal Andrea Carlo Ferrari. Per questo voglio condividere con voi qualche tratto della sua vita per capire che dono sono i vescovi. Anche il Papa è il vescovo di Roma. E quanto bella ma faticosa sia la loro vita. E per questo Francesco dice: per favore pregate per me. Altro che certe battute. Adesso è un po' che non la sento, ma un po' di anni fa girava: quale tranquillo come un papa. Vorrei vedere la vita di Francesco. Oppure in banca una volta io vado lì a fare un'operazione. E lo sportellista ci si conosceva un po' così, era una banca nella mia parrocchia, e lui mi fa: comoda la vostra vita di voi preti, eh? Se nasco un'altra volta, se nasco uomo faccio il prete, e se nasco donna faccio il mestiere più vecchio del mondo. Allora gli dico: guarda, se tu hai un figlio o una figlia, ti auguro che tuo figlio vada in seminario a fare il prete e tua figlia faccia una di quelle. No, cosa dice? E allora, e allora. Purtroppo noi vediamo magari il vescovo al momento della cresima, al momento di alcune feste, inaugurazioni, benedizioni di monumenti o roba simile. Per questo voglio dirvi qualche cosa di questo santo, beato vescovo Andrea Ferrari, che è nato sull'Appennino Parmense. E quando fu fatto vescovo di Milano, accanto al nome Andrea prese il nome di Carlo, da Carlo Borromeo, perché lo ammirava tanto e a suo modo un po' lo imitò. Infatti fu una figura eccezionale di pastore, che ha sempre desiderato e ricercato l'incontro col popolo, soprattutto per mezzo della visita pastorale. Non so se sapete cos'è, ma non posso dilungarmi, ma quanto sarebbe importante, cari amici, conoscere, oltre alla Bibbia, la vita dei santi e la vita della Chiesa. Mamma mia. A mezzo della visita pastorale nella sua immensa diocesi, pensate che la diocesi di Milano, con circa oggi 5 milioni di abitanti, è tra le più popolose del mondo. Poi si diede da fare, qui vi dirò un po' di cose che ha realizzato. Naturalmente non le ha fatte da solo, le ha fatte con i suoi collaboratori. Però se un ufficio gira bene è perché c'è un capo ufficio in gamba. Se un reparto di ospedale è quotato in Italia o all'estero, è perché c'è il primario che tira dietro tutti e che dà il tono, vi pare? Così anche un vescovo. Allora, diede nuovo vigore agli oratori parrocchiali, istituì anche numerosi collegi, collegi arcivescovili, che ci sono ancora oggi. Inoltre, venendo dal Parmense, insomma, terra di montagna, l'Appennino è anche terra socialmente aperta, potenziò la stampa cattolica, perché senza la stampa cattolica tu le tue idee non le conosce nessuno, le tue idee non le puoi proporre, difendere. Riflettiamo che ruolo noi abbiamo con la stampa cattolica in casa nostra. E incoraggiò i fedeli a costituirsi, organizzarsi, bisogna organizzarsi, in forza civile, sociale e politica, non un partito, però in forza civica, sociale e politica, per animare la società con i valori del Vangelo. Questo, diciamo, nella sua azione un po', diciamo, culturale, sociale, nella sua azione all'interno della Chiesa tipicamente ecclesiastica, Convocò tre sinodi diocesani, se lo sapete va bene, se no ve lo spiegherò un'altra volta, e un concilio provinciale. Inoltre, a livello italiano si fece il congresso eucaristico nazionale e lui si diede da fare insieme a un convegno di musica sacra, quello catechistico, niente male. Con altri, con Gemelli e con Armida Barelli, attese alla costituzione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e alla fondazione di un'opera assistenziale, di assistenza sociale, l'opera Cardinal Ferrari, esiste ancora oggi. Mi pare che ne ha fatte, ma poiché incappò anche nella Prima Guerra Mondiale, organizzò le parrocchie per aiutare e per alleviare le sofferenze dei soldati e delle loro famiglie, sia curando i rapporti epistolari, sia sostenendo anche con dei benefit le famiglie a casa, che tante volte avendo al fronte l'unico uomo di casa, soprattutto se erano contadini o se erano artigiani, vedeva prosciugarsi le fonti della loro. Incappò anche nel 1898 nelle agitazioni sociali che l'hanno fatto patire e nella lotta antimodernista. Cos'è il modernismo? Era un modo che si è rivelato un po' un'eresia, a furia di voler andare incontro al mondo, rendere la Chiesa più moderna, l'ha annacquato così tanto il messaggio evangelico che non era più evangelico. E lui fu accusato di modernismo, pensate, il vescovo, il cardinale di Milano. Gli hanno mandato da Roma, dal Vaticano, una visita apostolica per vedere di controllarlo, di verificarlo, un'umiliazione paurosa, un'umiliazione, ma da cui uscì pulito, no? Beh, insomma, queste agitazioni sociali, questo modernismo fu causa, fonte di gravi incomprensioni e di molte sofferenze, ma che egli affrontò con la rettitudine del suo agire e la magnanimità del suo cuore. Per finire, il Signore fa sempre così con i suoi prediletti, no? Dice il libro della Sapienza, il Padre mette alla prova, addirittura dice castiga, il Padre mette alla prova il Figlio che egli ama. E così verso la fine della sua vita, lui che fu un annunciatore di Gesù Cristo ebbe un cancro alla gola che gli tolse la voce e gli tolse alla fine anche la vita. E si spense il 2 febbraio 1921. Cari amici, vi ho detto solo due paroline così, ma perché vorrei mettervi nel cuore l'amore per i vostri vescovi. L'amore per i vostri vescovi. Magari mandate due righe se sentite una predica bella, se sentite. Fanno bene, sapete, a tutti, perché il male o uno sbaglio c'è il megafono, ma il bene, la santità, quasi nessuno ringrazia Dio e ringrazia il Vescovo. Amiamo il Papa, amiamo i Vescovi. Io sto col Papa, io sto coi Vescovi. Che siano santi personalmente, e lo sono, quelli che conosco io, e che siano anche dei santi pastori, perché un vescovo, anche il vescovo di Roma, non deve essere santo solo come un monaco, ma devono fare scelte pastorali, sociali, quasi di livello quasi politico, scelte mondiali, scelte sulla pace, scelte su tutto, e lì devono avere anche una santità di Spirito Santo, una luce per non sbagliare, per fare delle buone scelte. Amiamo i vescovi e preghiamo per loro, e così sia.